Effetto Mondo. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris. E allora Giulia, questa voce che abbiamo ascoltato di chi era? È la voce di Mitch McConnell, che è il leader della maggioranza in Senato, quindi repubblicano, politico di lunghissimo corso, è senatore dell'Alabama, compirà 79 anni in febbraio. Cosa dice? Super alleato di Donald Trump e dice: voglio congratularmi con Joe Biden. Questo è successo ieri, quindi il giorno dopo il famoso voto del collegio elettorale, in cui sappiamo 306 voti sono andati a Joe Biden contro i 232 di Donald Trump. Nell'elezione precedente era stato 304 per Donald Trump, 227 per Hillary Clinton. Donald Trump aveva chiamato quel voto, aveva definito quel voto un landslide, cioè un trionfo assoluto. Questo voto invece lui continua a contestarlo. Però Mitch McConnell, e capite, leader dei senatori repubblicani del Senato, leader della maggioranza del Senato, cioè dei repubblicani, è veramente una dichiarazione di peso. Si congratula sia con Joe Biden, che dice no stranger to the Senate, perché sono appunto praticamente coetanei, hanno passato decenni insieme al Senato, e poi si congratula anche con Kamala Harris. Questo passo viene registrato su tutti i quotidiani, a partire dal New York Times ma anche Wall Street Journal, perché tra l'altro le voci naturalmente ne danno conto i quotidiani, erano stati anche altri senatori finora riluttanti, uno per tutti Lindsey Graham, forse lo ricorderete, aveva sottoposto Kamala Harris a una serie di domande molto molto anche spiacevoli nei toni in un'audizione al Senato, insomma anche lui super sostenitore di Donald Trump, però anche lui a questo punto ha detto si è personalmente congratulato con Joe Biden e ha spinto perché avvenisse questo passo formale molto importante di Mitch McConnell. Lo dico per completezza, quello che abbiamo sentito erano 15 secondi, poi Mitch McConnell, con una grande coerenza personale che secondo me comunque gli fa onore, ha anche detto: io continuo a essere convinto che la presidenza di Donald Trump sia stata una presidenza importantissima per gli Stati Uniti, che lasci gli Stati Uniti in uno stato di salute economica migliore di come l'aveva trovato, ha fatto quello che nessuno credeva possibile sui vaccini, quindi diamogli credito per tutto questo, però a questo punto il president elect è Joe Biden. E questa non sarebbe una notizia se non fosse che Trump invece non ha ancora fatto queste congratulazioni. No, Trump continua a essere in quello che ormai viene definito il bunker della Casa Bianca, perché continua a pensare che e continua a sperare forse che l'ultimissimo passaggio, quello del 5 gennaio con il congresso che vota ufficialmente Joe Biden president elect, a quel punto mancheranno 15 giorni all'inaugurazione, evidentemente Donald Trump spera ancora che prima del 5 gennaio succeda qualcosa. C'è un'altra bomba in America ed è quella del vaccino, l'altro vaccino che arriva. Wall Street Journal, subito sotto la foto notizia, che è una foto tra l'altro scattata a Londra, dove si sta cercando, come da noi, di non stringere troppo per il Natale, quindi è la foto delle vetrine natalizie nel centro di Londra. Subito sotto c'è questa notizia che la FDA sta per autorizzare il vaccino di Moderna, che come sappiamo è uno dei tanti vaccini che sono ormai in fase finale, è diverso da quello di Pfizer perché ha bisogno di temperature più basse di conservazione, ha comunque bisogno di una doppia somministrazione, quindi non facile comunque organizzare la campagna di vaccinazione, ma naturalmente con due vaccini probabilmente a giorni disponibili negli Stati Uniti e probabilmente nel Regno Unito, in Israele, in tutti quei paesi che hanno già formalmente iniziato il processo di vaccinazione, insomma è una buona notizia. È tornato l'uomo dal nome impronunciabile che fa il ministro dei trasporti. Sì, se vuoi sentiamo il secondo audio. Qui poi Jacopo De Franchi mi aveva trovato al tempo delle primarie un tutorial per imparare a pronunciare questo nome. Sentiamo l'audio. Sentiamo. Buttigieg, the former mayor of South Bend, Indiana, would be the first LGBTQ person nominated to Biden's administration, and if confirmed, the first LGBTQ cabinet secretary ever to be approved by the U.S. Senate. Buttigieg. Pete Buttigieg, sapete, era candidato appunto alle primarie, sì. Aveva poi avuto, tra l'altro, aveva anche avuto importanti traguardi, record di finanziamenti, insomma era stato una delle sorprese delle primarie. Era stato un astro abbastanza in vista in quei forse... aveva fatto impazzire i commentatori non anglofoni di tutto il mondo. Poi il suo nome. Forse troppo giovane, poca esperienza appunto in alte cariche federali, perché è stato solo, tra virgolette, sindaco di una città piccola, però potrebbe, e a questo punto è quasi certo, essere il prossimo ministro dei trasporti. Si era fatto il suo nome anche come ambasciatore in Cina, alla fine comunque un incarico di governo, e la commentatrice sottolinea sarà il primo esponente della comunità LGBTQ, cioè della comunità lesbica, gay, transgender, ad avere un ruolo così importante, e anche il primo esponente della comunità, perché lui è dichiaratamente gay, di questa comunità LGBTQ Plus, una nomina ad essere approvata dal Congresso, perché naturalmente, come succede qui quando si presenta il governo che deve essere approvato dal Parlamento, anche il governo, cioè la squadra di Joe Biden, dell'amministrazione Biden, andrà poi, dovrà chiedere appunto il voto al Congresso. A proposito di finestre aperte, non c'entra nulla, che aria tira, questo è proprio così, in Gran Bretagna, Giulia? Stanno tutti cercando, e in fondo lodano anche lo sforzo che sta facendo Boris Johnson, ma qui poi anche lì avrà i suoi problemi con l'equivalente del CTS, perché Guardian parla di Christmas plans in balance, quindi da tenere in equilibrio. Il Daily Telegraph dice Boris Johnson si impegna a tenere il Christmas open, e poi naturalmente c'è la questione dei vaccini. E poi, se vuoi, come curiosità, invece l'Independent dà molto spazio alla decisione di Anthony Gormley, che è uno scultore molto famoso in Gran Bretagna e anche OBE, cioè Officer of the British Empire, la più alta onorificenza data dalla regina. Ha donato 400.000 sterline per sostenere un'organizzazione che si chiama Help the Hungry, che aiuterà soprattutto durante Natale, e soprattutto, ne abbiamo parlato in precedenza, perché con le scuole chiuse moltissimi bambini delle famiglie che hanno meno disponibilità non hanno accesso nemmeno a quel pasto decente e completo che garantisce il fatto di andare a scuola. Nel Regno Unito le scuole sono quasi tutte a tempo pieno, quindi almeno un pasto buono, ben organizzato e ben somministrato c'è per questi bambini. Con le scuole chiuse questo non succede. Le prime pagine dei giornali francesi parlano invece di un referendum. Di che si tratta? Sì, Macron ha lanciato già un paio di giorni fa quest'idea di sottoporre al suo paese, ai suoi elettori, un referendum per la famosa svolta ecologica, ma c'è molto scetticismo, perché è inevitabile. Cioè, chiedendo se si è d'accordo con la svolta ecologica? Sì, con sapete insomma, così con in sì, lui, Macron ovviamente aveva un grande piano anche prima, diciamo, di quelli che poi saranno le richieste del recovery plan e del recovery fund, però sembra veramente un po' come parliamo d'altro, parliamo di una cosa che tutti vogliamo, la svolta ecologica, e c'è anche quest'altro tema. Perché se la sostenibilità ambientale veniva vista come un investimento, adesso sta diventando soprattutto un costo, e quindi sarà difficile per le aziende, questo scrive in un editoriale Le Figaro, far capire che anche in grandi difficoltà uno dei modi per guardare veramente al futuro, per guardare oltre la pandemia, è mantenere ferma la barra sugli investimenti in sostenibilità ambientale. Bisogna fare in modo che questi investimenti non siano un costo, un aggravio in più per le aziende già azzoppate da questa difficoltà, ma siano invece uno strumento di svolta. Però qualcuno ci dovrà mettere delle risorse, immagino. Sì, è proprio anche una questione, credo, anche per tutti noi consumatori. Cioè, è vero che ancora oggi tutti i prodotti che sappiamo essere sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale in generale costano un pochino di più, dobbiamo proprio tutti vederli come non un semplice costo, ma un investimento nel pianeta e nelle società che lasceremo ai nostri figli, alle prossime generazioni. Per chiudere, ancora un titolo 2, cosa se ci vuoi propone? Dalla Germania, che la Bild ha fotografato la Kanzlerin, la cancelliera, che ieri, ultimo giorno diciamo di libertà commerciale, è andata a farsi dal parrucchiere un giro. Lì ne avrebbe bisogno. Nel senso che mi avevi detto che c'era la coda dei parrucchieri. Sì. Perché... io la amo, ma quei capelli, ma vabbè. Quindi la Kanzlerin è andata al KDW, che è questo grande magazzino, un po' l'equivalente della Rinascente qui a Milano, a Berlino, poi c'è anche in altre città, però è andata a Berlino con una scorta minimale, come da suo stile, e naturalmente poi c'è anche tante anticipazioni su questi posti dove ci si potrà vaccinare, tanto che la Bild proprio dice "So wird Deutschland jetzt geimpft", così la Germania sarà vaccinata, e ci sono alcune ipotesi che probabilmente già lunedì potrebbero iniziare alcune stazioni vaccinali. Ci si chiede, ma non doveva iniziare lo stesso giorno in tutta Europa? Forse fanno una cosa simbolica dopo Natale, poi però noi partiamo dopo gennaio, probabilmente dai primi di gennaio. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, ci risentiamo naturalmente domani. Per quanto riguarda oggi, con Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia, noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14.